scappa, io sono ben buono di finisola. Moto da strada e moto da enduro. C'è un Kawasaki 750 io. C'ho ancora il giubbino in pelle. I guanti non li trovo più con la senza dita. Con tutti gli stimi attaccati ogni motore su quello che facevo. Bello, bello veramente. Noi ogni anno veniamo qua al motorato uno che fanno Aisti e di Violo. Il compare poi aspetta, quanti ce n'era? Non mi ricordo quelli di Sassari come si chiamavano, che era insomma zona Villa Gorizia. Non mi ricordo. Capo anch'io non poco me ne ricordo. Però ce ne sono tanti qua a Sassari, quelli di sempre sono un bel gruppo. Noi eravamo un gruppo di 6-7 persone, poi sconciati, sono rimasto da solo, poi niente, sono sparito anch'io. E vabbè, pazienza, infatti uno che era con noi si è iscritto con uno dei Cagliari, addirittura con un gruppo di Cagliari. E vabbè, ma la passione della moto non passa mai, non è l'unico manca. Ma ti dirò, io è difficile che la riprendo, sì mi piace, mi manca, però ho problemi schiena. Erri nel torto, erri nel disco, quindi vede bene, poi sono anche cardio epatico, lascio perdere. E anche io con la moto da strada, la schiena me la fa distruggere, però la passione è quella. Lo so, la moto io ho il pistone nel bene, mi scorre il pistone, è troppo bella. Sì, infatti mi sto prendendo uno scooterone, pazienza, dai. Vado a lavorare, che mi è destato, c'è un po' di aria e basta. E vabbè, l'importante è sempre due ruote, dai, io non sono di quei motociclisti che scooter di Giulia. Già va bene lo stesso, l'importante è la passione di divertirsi. Sì, in effetti, dai. Va bene così, piano piano, ci si va. Tanto, la colpa ce lo sappiamo, è sempre di noi, degli autisti delle macchine. E vabbè, che ci vuoi fare? Purtroppo quello è un incontro, per noi la domenica usciamo e facciamo babudoni, nella parte di piana fila, ogni domenica, e c'è il rischio ogni volta, però a Napoli vengono gli occhi appesi. Io ho mio figlio che abita a Posada, quindi vicino a Budone. Ehi, come si chiama tuo figlio? Ma lo conosco. Ivan. Ivan? Andare a chi lo voglio, me lo dico mai. Ti posso dire che la sua compagna, Simona, hanno il chiosco giù a... La figlia di Simona, hanno il chiosco. Ah, cappa, sì, io sono di Cinecola, con te ho la brava Budone, siamo tutti lì, conosciamo. Mio figlio c'ha una Clio bianca. Ho capito. E c'ero da poco io, ho fatto Urbia, Posada, Nuoro. Ah, buono. Se ne viene dalle nostre parti, sicuramente ci sta bene, vero? Si riscuola niente così. Eia. Ok. Beh, ha parlato in macchina, non ne ho. Io ho un Midland portatile, adesso non sono la figlia, sono sempre in macchina. Adesso ho montato l'impianto a bilico, l'avevo smontato e avevo pulito la stella. No, non piace, mi distrae troppo il baracchino in macchina, capito? No, non mi va più di tanto, sì, forse 30-40 anni fa sì. Io sono la bellezza dal 74 di frequenza. Adesso siamo più vecchietti, vabbè, anche se l'età che ho non la dimostro, però già ci sono, gli acciacchi già ci sono, la trana mi va di pensione e mi riposo. Buono, adesso che giovani a fare. Allora, ma io ho l'intenzione mia di andarmene all'estero, guarda, a vivere, perché qua in Italia ci strozzano con le tasse, questi del governo si mangiano i soldi e a noi c'erano le briciole. E le prospettive non sono delle migliori, io ho 38 anni e dico che mi prendo tante volte di andare fuori, solo che la mia compagna non mi conosce. Sì, già vuole 38 anni. Io ne ho 60, sì. Però qua, ma il miglioramento non si deve avere, il miglioramento. Ma quanto pare c'è questo coronavirus, sta di nuovo aumentando. Ma io ho sentito una signora su Facebook, addirittura dice che il governo è d'accordo con la sanità, che molti non è vero niente. E ci sono ancora delle persone della sanità che sono veramente serie, non pagliacci, che sono influenzate dal governo a dire dei morti, perché abbiamo saputo anche la verità che uno muore di infarto, è morto di coronavirus, uno muore di tumore, coronavirus. Allora, sappiamo una cosa, in un giorno, sai quante morti succedono in tutto il mondo? Parecchi, anche a Sassari, anche altri paesi, qualche uno muore, e non sappiamo mai niente perché non li conosciamo, quindi automaticamente loro dicono sempre coronavirus, capito? E quindi i morti aumentano. All'anno, sai quanti morti sono? Parecchi, in tutto il mondo. Siamo arrivati a 9 milioni, dicono, sì, ma qui devono morire per forza, perché no, tutti gli anziani. Allora, questo coronavirus è un'influenza pesante, e chi ha delle patologie che non ha gli anticorpi, giustamente non ce la fanno. Tu prendi uno che aveva la DS, un raffreddore moriva, perché gli anticorpi non ce la facevano, e non è niente l'influenza, diciamo, del raffreddore. Questa influenza è un pochino più pesante, giustamente ci rimettono le persone. Quindi io sono propenso a questo, che è tutta una balla. Però c'è andata per mezzo l'economia, perché chiudendo tutti i negozi è incasinato tutto, perché uno poveraccio deve pagare l'affitto lo stesso, la luce. Io ho visto luce un tipo del bar che ha detto, guarda, devo pagare questa luce qua, e il negozio era chiuso, 1500, no, 1776 euro, ma stiamo scherzando, non ho incassato niente, ero chiuso tra l'altro, e mi devo pagare questa luce. Lo so, perché anche mio compare ha un bar, e comunque non so pagare luce, acqua, tutto il resto, anche il e tutto quello che concerne, ma si sta smanciando, e tante altre, ha pagato la prima, anche se stavo lavorando, purtroppo, ma per fortuna c'è stato qualche proprietario di casa che ha concesso magari una vera, però il fatto è che noi non sapevamo mai la vita, non lo sapevamo mai, e fanno per certo che fanno. Sicuramente c'è qualche manovra finanziaria o qualche manovra non so, per il tipo di ancora la popolazione. Ma io, in base a quello che la mia esperienza, quello che sento, leggo, guardo, vedo, eccetera, può essere anche, diciamo, dei grandi che diranno, noi facciamo cadere queste nazioni, noi facciamo arrivare la fame. E poi vuole stare con l'Orbitz, perché all'inizio ho pensato, ma non sarà invece l'Inzis che ha buttato qualcosa in aria. Ha iniziato in Cina, perché giustamente i cinesi sono miliardi e girano tutto il mondo e sparpagliano questo virus. Poi ho pensato alla balla, diciamo, delle nazioni che sono messe tutte d'accordo. Cioè, giustamente c'è, non lo sai mai la verità, però il fattore di questo Conte, che è un pagliaccio, lo abbiamo sempre saputo, a partire dal PD. E Zingaretti, caso strano, anche lui ha preso il coronavirus, neanche 2 settimane a casa sua, tutto l'è passato, a posto, cioè, non lo so, guarda, io dico solo una cosa, questo Conte parla dei miliardi, casa integrazione, le persone non hanno mai ricevuto 5 lire, non ho capito, altri miliardi, ma per mangiare loro, per farsi lo yacht, cioè non ho capito, e l'italiano come è messo a terra. Noi ci dobbiamo ribellare come hanno fatto in Argentina, mettere sotto sopra Roma e buttare in terra questi pagliacci che ci governano, che pur non li ha votati nessuno. Ma purtroppo l'italiano è stata sempre una popolazione di pezzi, sempre armiamoci da partire noi, perché noi rimaniamo così qua. Tutta la gente è brava a parlare al bar, ma poi alla fine dei conti nessuno le fa. Anche quando c'è stata la protezione dei fattori, hanno iniziato con i buoni propositi e poi l'hanno fatta tipo loro stessi e non sono arrivati a un caso. Purtroppo, come ha fatto la Francia, lo dovevamo fare, mettere a ferro e fuoco più di tutto qua. Capo, i giri verdi, quelle sono le palle, anche la Germania. Però in Germania è tutto diverso, quindi sempre che non si ribellano, perché giustamente hanno lasciato i prezzi come erano. Quindi non è che non hanno fatto anche altre nazioni come l'Italia, che praticamente se questo lo pagavi 10.000 lire, adesso paghi 10 lire, sono 20.000 franchi, è diverso. Purtroppo qua le palle non ce l'hanno. Meglio era se la Sardegna indipendente, perché noi possiamo governare con la Sardegna indipendente, non ci manca niente. Invece, poi questo libro che ha tolto Prodi, per carità, ci ha rovinato ancora di più di tutti, e poi si vanta pure. Un gelato lo pagavate 1.500 lire, oggi lo pagate 3 o 6.000 lire, pezzo di merda, e lui piglia 15.500 euro al mese di pensione, cioè da prenderlo e fucilarlo. Purtroppo la presa è alta, non so, sto pagando dalla lira all'euro, lo stipendio che era 1.000.000, che fa passare in Germania quello che era 1.000.000, so che era 1.000.000, che fa passare in Germania. Quello che loro hanno la sovranità con la moneta. È tutto un casino, eh. E vabbè, ce l'ho fregato. Per carità, hanno meglio cambiare il discorso ogni tanto. Solo pensare così, diciamo, ti viene nel rosa per niente. Già ne ho scritto poco io su Facebook di questo del PD, per carità. Zingaretti ha fatto andare di sotto la Regione Lazio di 1 miliardo, la sanità. E sempre vuole continuare a mangiare, ma perché non gli viene un infarto e vuole subito sto cane nebroso, ragazzi? Ascolta, io devo lasciare adesso che mi hanno finito di scaricare, che sono qua alla GLS, poi me ne devo ritornare a Olga con l'articolato. Se mi cerchi, vabbè, tanto mai ci vediamo qualche fuori da tutti. Io comunque sono Peppone in carta. Peppone? Carpa. Ok. Quindi ti conosco anche se riesco, va bene. Ehi, ehi. Se mi vuoi cercare anche su Facebook e mi chiedi la notizia, così almeno quando capisci in zona, magari ti manda un messaggio e ti do anche il caffè. Perché no? Quindi si è registrato come Peppone Carpa, giusto? Carpa. Adesso ti cerco di chiedere su tra amicizia, non c'è problema. Carpa, carpa, dai. Buona serata e buon proseguo. Ciao. Ok, ciao Peppone, piacere mio. Devi chiedere l'amicizia, non c'è problema. Tu che mi chiamo Soggia, dai, non c'è problema. Antonio. Eia, cappa cappa, tu. Tanto una buona serata, altro. Ciao, ciao. Ok, grazie, ci sentiamo Peppone. Ciao, piacere mio.